Panza desmarza, giretto, pioppetto, birretta, senza un pioppo nella stanza, la mosca è abbastanza. Innocente signor giudice, sono un pacifista, credo nella forza presente nella mista. Faccio molto sport, sono anche un atleta, chiudo pioppo in men che non si dica. E sorrido perché so che un giorno me ne andrò, ma intanto la mia vita me la godo un bel po'. Innocente lo so, ma ammetto, giretto, birretta, pioppetto. Chi rizza la rizza la intizza, lo sguazzo in tavanza desmarza. Giretto, pioppetto, birretta, senza un pioppo nella stanza, la cosca è abbastanza. Lasciatemi cantare, lasciatemi sguazzare, attacca due cartine pronti per il virtuale. Come diceva Bob, ho sparato allo sceriffo per difendere il mio campo da un fottuto pregiudizio. Erba miracolosa, verde appiccicosa, ti si attacca sulla nuca e vedi il mondo più rosa. Quattro comandamenti della cosca dei compari, sono i comandamenti che ci rendono tutti uguali. Chi rizza la rizza la intizza, lo sguazzo in tavanza desmarza. Giretto, pioppetto, birretta, senza un pioppo nella stanza, la cosca in fattanza. Solo noi che abbiamo il privilegio di andar di gente in gente offrendo ganja tipo banchetto esempio. Se annuncio che rullo, non c'è nessuno che mi può recar disturbo. Meriterei la laurea honoris causa, in quanto sono io il dottore per questa puntata. Quindi chi rizza se la intizza, se finisce si rinizia. Divido insieme ai miei fratelli ancora un'altra mista. Chi rizza la intizza, lo sguazzo in davanza desmarza. Giretto, pioppetto, birretta, senza un pioppo nella stanza, la cosca è abbastanza. Non fa male, è naturale. Non ascoltare chi ti dice che vai all'ospedale, sono a rischio, ma non ho perso il vizio. Se sono senza ganja, capodanno fumo il vischio. E è la meglio gioventù che ti dice di far su. I problemi vanno giù e il sorriso sale su. E lo dico anche a te, divisa blu, che mi fermi e non mi lascia andare più. Chi rizza la rizza la intizza, lo sguazzo in davanza desmarza. Giretto, pioppetto, birretta, senza un pioppo nella stanza, la cosca è abbastanza. Le dio di fare il distintivo che me vuoi ligar. Me flescio, alzo i tacchi, disco, inizio a scappar. Ciappeo, ciappeo, le un semo deficiente. Po' di ancaco parlo tanto, non capisse niente. Ti dici che chi fuma, de certo non ti ispira. Domanda gatto fio con tutte canne che a se gira. Te dici gatto fe per a me educazione. Ma attaccati a sto cazzo e sguaratami un coglion. Chi rizza la rizza la intizza, lo sguazzo in davanza desmarza. Giretto, pioppetto, birretta, senza un pioppo nella stanza, la cosa.